ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Quarta puntata. E amico. Jasper, attraversando il sagrato sulla via di casa, si arresta di colpo di fronte allo spettacolo di Petraio Durdles, con fagotto e tutto il resto, appoggiato alla cancellata di ferro che separa il cimitero da vecchi archi del chiostro, e di un ripugnante ragazzetto cencioso occupato a prenderlo a sassate. Talvolta le pietre lo colpiscono e talvolta lo mancano, ma Durdles sembra indifferente nell'uno e nell'altro caso. Il ripugnante ragazzetto, invece, ogni volta che lo colpisce emette un fischio di trionfo attraverso un varco frastagliato adatto allo scopo nella parte inferiore della bocca priva di metà dei denti, e ogni volta che lo manca strilla «Che schifo!» e tenta di rimediare al fallimento prendendo la mira con maggior precisione e cattiveria. «Che gli stai facendo a quest'uomo?» chiede Jasper passando dall'ombra alla luce lunare. «Il tiro al bersaglio ci faccio», risponde il ripugnante ragazzetto. «Dammi i sassi che hai in mano». «Sì, te toccami e giuro su Dio che te li caccio in gola», dice il ragazzetto divincolandosi e arretrando. «Guarda, vè, che ti spappolo un occhio. Demonio d'un bambino, che t'ha fatto quest'uomo? Non se ne va a casa. E a te che te ne viene? Mezzo penny me ne viene, che lui me lo dà per cacciarlo a casa se lo becco che sta fuori troppo tardi», dice il ragazzetto. E poi, come un piccolo selvaggio, mezzo inciampando e mezzo ballando tra i suoi cenci e i lacci della scarpa, canta «Lallallera, lallallera, alle 10 della sera, lallallera, lallallà, se lo becco lo vedrà, lallallera, lallallò, e col sasso arriva mo'». Con un ampio gesto rotatorio sull'ultima parola e un lancio di pietra. Sembrerebbe questa una nota poetica di allerta concordata in precedenza per avvertire Durdles di schivare, se può, oppure di mettersi sulla via di casa. John Jasper invita il ragazzetto a seguirlo con un cenno del capo, consapevole dell'impossibilità di trascinarlo o lusingarlo, e raggiunge la cancellata di ferro dove il pietraio è pietrato e assorto a meditare. «La conoscete questa cosa, questo bambino?» chiede Jasper, perplesso sulla parola che possa definire la cosa. «Deputy», dice Durdles annuendo. «Sto a servizio al viandante, su ai giardini del gasometro», spiega la cosa. «Tutti noi maschi che si sta alla locanda ci chiamano deputy. Quando che la casa è piena e i viaggiatori stanno a letto, io me ne vado a zonzo». Poi, ritraendosi verso la strada e prendendo la mira, ricomincia «Lallallera, lallallera, alle 10 della sera». «Fermo con quella mano!» grida Jasper. «Guarda di non tirare mentre gli sto vicino, sennò ti ammazzo». «Andiamo, Durdles, stasera vi accompagno a casa io. Vi porto il fagotto?» «Non se ne parla», risponde Durdles sistemandolo. «Quando siete arrivato, signore, Durdles se ne stava qua a riflettere, circondato dalle sue opere, come un autore di romanzi». «Vostro cognato?» presentando un sarcofago dentro il recinto, bianco e freddo nella luce lunare. «La signora Sapsi», presentando il monumento funebre di quella moglie devota. «Il defunto decano», presentando la colonna spezzata del reverendo gentiluomo. «Il fu esattore delle tasse», presentando un vaso e una salvietta poggiati su ciò che parrebbe rappresentare una forma di sapone. «Il mastro pasticcere che fu rispettato e stimato», introducendo la lapide. «Qui tutti bene al sicuro, signore, della gente comune infagottata in terra e rovi, meno si dice meglio è. Di una misera sorte si scorda presto la morte». «Quella creatura, deputy, ci viene dietro», dice Jasper girandosi. «Deve seguirci?» I rapporti tra Durdles e Deputy sono di natura stravagante. Infatti, quando Durdles si gira con la grave lentezza della stupefazione alcolica, lui si sposta con un ampio movimento circolare e si mette sulla difensiva. «Stasera mica l'hai gridato il lallallero prima di cominciare», dice Durdles inaspettatamente, ricordando o immaginando un'offesa. «Invece sì, bugiardo», dice Deputy. «Fratello di sangue, signore», osserva Durdles, rigirandosi e dimenticando l'offesa con la stessa inaspettata rapidità con cui l'aveva ricordata o supposta. «Fratello di sangue del ragazzo selvaggio. Ma io gli ho dato un obiettivo nella vita». «A cui mirare?» suggerisce Jasper. «Esatto, signore, a cui mirare», risponde Durdles con evidente soddisfazione. «Io me lo sono presa a cuore e gliel'ho dato un obiettivo. Che cos'era prima? Un barbaro e il suo lavoro distruggere e basta. E che ci guadagnava? Brevi soste nella prigione di Cloisterham. Non ci stava persona, oggetto di proprietà, finestra, cavallo, cane, gatto, uccello, gallina, maiale, che lui non te li pigliava a sassate per mancanza di un obiettivo illuminato. E io a lui gliel'ho messo davanti. E adesso, col suo onesto mezzo penny al giorno, ce ne fa 3 a settimana. Mi meraviglio che non abbia concorrenti». Ce n'ha, signor Jasper, ma lui li caccia a sassate. Ora, dove porta questa mia pensata, io non lo so», continua Durdles, riflettendoci sopra con la stessa inespressiva gravità. «Come si può chiamare, io non lo so. Non è che una specie di programma di istruzione nazionale?» «Non direi», risponde Jasper. «Non direi neanch'io», concorda Durdles. «E allora non ci proviamo a dargli un nome». «Continua a venirci dietro», ripete Jasper guardandosi alle spalle. «Se prendiamo la strada più corta, dalla parte di dietro, si passa per forza vicino alla locanda», risponde Durdles. «E lo muliamo lì». Così procedono. Deputy, come retroguardia singola in ordine sparso, invade il silenzio dell'ora e del luogo, lapidando ogni muro, palo, pilastro, oggetto inanimato qualsiasi lungo la strada deserta. «Niente di nuovo giù alla cripta?» chiede John Jasper. «Magari volete dire niente di vecchio? Mica è un posto di novità quello». «Dicevo, nessuna nuova scoperta da parte vostra?» «Ce ne sta uno sotto il settimo pilastro a sinistra, scendendo per gli scalini sfasciati della cappelletta sotterranea, che ci stava una volta. Io mi figuro, per quanto riesco a figurarmi per adesso, che è uno di quelli col bastone. A giudicare da quanto sono stretti i passaggi dei muri e gli scalini e le porte da dove andavano avanti e indietro, quei bastoni là li dovevano impicciare un bel po' ai vecchi compari. Se per caso se ne incontravano due, sai le volte che si impigliavano per le mitre?» Senza tentare di correggere l'esattezza di quell'opinione, Jasper osserva il compagno, coperto da capo a piedi di malta incrostata, calce e polvere, come se lui, Jasper, si stesse impregnando di un interesse romantico per la sua strana vita. «Che esistenza singolare la vostra! Senza fornire il minimo indizio al quesito se lo consideri un complimento o un'offesa, Durdles risponde brusco: «La vostra pure». «Beh, se vogliamo dire che la mia sorte mi tiene nello stesso luogo terroso, freddo, che non cambia mai, allora sì. Ma c'è molto più mistero e interesse nel vostro legame con la cattedrale che nel mio. A dire il vero, mi sta venendo un'idea. Perché qualche volta non mi prendete con voi come una specie di studente, di apprendista, e mi portate a vedere qualcuno di questi strani cantucci dove passate i vostri giorni?» Il pietraio risponde in modo generico d'accordo. Tutti lo sanno dove trovare Durdles quando serve. Alla qualcosa, seppure non strettamente vera, lo è approssimativamente, nel senso che Durdles può essere sempre trovato a vagabondare da qualche parte. «Quello che mi colpisce», dice Jasper, indugiando sul tema dell'interesse romantico, «è la stupefacente precisione che pare vi faccia scoprire dove è sepolta la gente. Che c'è, il fagotto vi impiccia? Ve lo tengo io». Durdles si è fermato arretrando leggermente. Deputy, attento ad ogni sua mossa, immediatamente scantona verso il centro della strada, in cerca di qualche sporgenza o di angolo dove appoggiare il fagotto, quando ne viene così liberato. «Tiratemi fuori il martello che vi mostro», dice Durdles. Clink, clink, e il martello gli viene allungato. «Allora, guardate qua. Voi intonate la vostra nota, giusto?» «Sì». «E io pure. Prendo il martello e batto». Qui colpisce il selciato e l'attento deputy scantona un po' più in là, preoccupato per la sua testa. «Io batto, batto, batto, pieno. Continuo a battere, ancora pieno. Batto di nuovo, e là, vuoto. Batto di nuovo, insisto, pieno nel vuoto. Batto, batto, batto per essere sicuro, pieno nel vuoto e dentro il pieno ancora vuoto. Ci siamo, ecco qua, sbriciolato dentro una bara di pietra, dentro una volta». Stupefacente. «Ho fatto anche così», dice Durdles tirando fuori il suo regolo, mentre i deputy si riaccosta come stesse sospettando l'imminente scoperta di un tesoro che possa in qualche modo condurre lui alla ricchezza e gli scopritori alla squisita morte per impiccagione grazie alla sua testimonianza. «Mettiamo che il martello è un muro, opera mia. 2, 4 e 2 che fa 6, misurando il selciato. A 6 piedi dietro il muro c'è la signora Sapsi». «Mica per davvero la signora Sapsi. Faccio per dire, il suo muro è più spesso. Ma diciamo che è lei». Durdles batte su quel muro rappresentato dal martello e dice, dopo un bel po' di colpi, «C'è qualcosa tra noi due. Di sicuro gli uomini di Durdles ci hanno lasciato qualche robaccia in quello spazio di 1,5 metri. Jasper ritiene che tale accuratezza è un dono. «No, che non è un dono», replica Durdles risentito. «Sono io che l'ho pensata questa cosa. Durdles ci arriva a furia di scavare alla sua conoscenza e la tira fuori per le radici se non vuole venire». «E là, deputy». La lallera è la stridula risposta di deputy che si riallontana. «Acchiappa sto mezzo penny e per stanotte sparisci quando si arriva alla locanda». «Mo!» ribatte deputy afferrando il mezzo penny e apparentemente esprimendo con la mistica parola il suo assenso all'intesa. Devono solo attraversare quella che un tempo era la vigna appartenente a quello che un tempo era il monastero, per arrivare al vicoletto dove si trova la strampalata casa di legno a 2 piani bassi, comunemente conosciuta come la locanda del viandante. Una casa sbilenca e storta, come la morale dei viandanti, con pochi residui di un portico a graticcio sopra la porta e anche di un rustico recinto davanti al giardino tutto calpestato. È così tenero il sentimento che lega i viandanti al luogo, o così forte il desiderio di accendersi un fuoco lungo la strada nel corso della giornata, che non si riesce a convincerli o costringerli a partire senza che arraffino un qualche ligno «non ti scordar di me» e se lo portino via. A questo misero posto si è tentato di dare le sembianze di locanda, coprendo le finestre con brandelli delle tradizionali tende rosse, stracci resi di una trasparenza fangosa quando fa buio, da fievoli stoppini di canapa o cotone che bruciano fiocchi all'interno nell'aria chiusa. Quando Jasper e Durdles si avvicinano, li accoglie una scritta su una lanterna di carta sopra l'ingresso che annuncia le finalità della casa. Li accoglie anche una mezza dozzina di altri ripugnanti ragazzetti, viandanti oppure compagni o tirapiedi dei viandanti, chissà, i quali, come attratti da un fetore di carogna diffuso nell'aria da deputy, si slanciano in avanti nel chiarore del lunare, simile ad avvoltoi che si radunino nel deserto e istantaneamente lo prendono a sassate e si prendono a sassate l'un l'altro. «Fermi, piccole bestie!» grida Jasper furioso. «Lasciateci passare!» Visto che la rimostranza è accolta da urla e lanci di pietre, secondo un costume tranquillamente accolto in anni recenti nei regolamenti di polizia delle nostre comunità inglesi, dove i cristiani sono lapidati da ogni parte come fossero tornati i giorni di Santo Stefano, Durdles, con una certa proprietà osserva che i giovani selvaggi non hanno un obiettivo e si avvia per primo lungo la stradina. Giunto all'angolo, Jasper, infuriato, ferma il compagno e si gira. Tutto tace. Un attimo dopo, quando una pietra gli crepita sul cappello e l'urlo lontano «Arriva mo!», seguito da uno starnazzo come di un gallo covato all'inferno, lo informa sull'origine del lancio di precisione a cui è esposto, svolta l'angolo per mettersi in salvo e accompagna Durdles a casa. Durdles che incespica tra i detriti del suo cortile di pietra, come sul punto di buttarsi a capofitto in una delle tombe non finite. John Jasper torna a casa per un'altra strada ed entrando vede che il fuoco è ancora acceso. Da un mobile chiuso a chiave prende una pipa di forma particolare che riempie, ma non di tabacco, e sistemato con cura ciò che il fornelletto contiene con un piccolo arnese, sale i pochi gradini di una scala interna che conduce a due stanze. Una di queste è la sua camera da letto, l'altra quella di suo nipote. C'è una luce in entrambe. Suo nipote giace addormentato, calmo e sereno. John Jasper sta lì in piedi a guardarlo per un po', la pipa spenta in mano, con un'attenzione assorta e intensa. Poi, senza far rumore, passa nella sua stanza, accende la pipa e si abbandona agli spettri che essa invoca a mezzanotte. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.